giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 25 aprile alla Risiera di San Sabba, il monumento gremito fino al limite della capienza, fissata in 2200 persone. All'esterno, chi non è riuscito a entrare, ma anche i partecipanti ad un corteo pro-Palestina partito da San Giacomo. Imbrattato nella notte, il monumento che a Trieste ricorda i caduti partigiani di Sant'Anna e Kolonkovec, una scritta tracciata con vernice nera, dice 25 aprile, giornata di lutto nazionale. Cerimonie di commemorazione della liberazione dal nazifascismo anche nelle altre città, a Udine prima una corona al cimitero inglese di Tavagnacco, poi un corteo fino a Piazza Libertà. Il 25 aprile di Pordenone coincide con la festa patronale di San Marco. In questo momento è in corso la consegna dei riconoscimenti a tre cittadini illustri. In mattinata l'inaugurazione del restaurato campanile del Duomo. Il sostegno all'Ucraina che si difende dall'invasione russa. Da Trieste sono partiti due furgoni di aiuti umanitari diretti a Kherson. È la 15ª spedizione in questi 26 mesi di guerra. Prima italiana ieri sera al Rossetti di Trieste per Six, lo scoppiettante musical britannico ispirato alla vicenda delle mogli di Enrico VIII. Repliche fino a domenica prossima. Sono passati 60 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche di uno dei capolavori di Pierpaolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, umanissimo e visionario. A Casarsa una mostra di fotografie di scena ripercorre la realizzazione del film. Il calcio, una ventina di minuti di calcio al Friuli stasera per chiudere la partita Udinese-Roma che lo scorso 14 aprile era stata interrotta al 72esimo per un malore accusato dal difensore giallorosso Evan Ndicka. Sfida che potrebbe regalare la promozione in A1, quella che attende stasera le ragazze della CDA Talmassons in campo contro Busto Arsizio. Grande ottimismo da parte di coach Barbieri. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lorenzo Gerlinzoni e Antonio Cagliazza. Nella Risiera di San Sabba a Trieste la cerimonia più importante di questo 25 aprile in Friuli Venezia Giulia. La capienza massima era stata fissata dal comune a 2200 persone e all'ingresso del monumento su via Palatucci era stato posizionato un contapersone. Con il 25 aprile ricordiamo la rivolta di un popolo contro l'oppressore per affermare il proprio diritto alla pace. Così è cominciato il discorso di apertura della manifestazione del 25 aprile da parte del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza alla Risiera di San Sabba, centro di concentramento nazista con forno crematorio in cui transitarono e furono uccisi ebrei oppositori al nazifascismo. Discorso chiuso con viva le libertà, viva la Costituzione, viva la Repubblica Italiana. Subito dopo dal pubblico una donna ha aggiunto ad alta voce viva l'antifascismo. E poi è partito un coro, ora e per sempre, Resistenza. Una manifestazione partecipata con oltre 1700 presenti, per la prima volta conteggiati a un varco per verificare che non si arrivasse a superare il limite di sicurezza. Applaudito il discorso della rappresentante dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, Floriana Rizzetto, che ha fatto riferimento anche all'attualità, parlando contro la riforma del premierato, l'autonomia differenziata, citazioni che hanno irritato il presidente della regione Massimiliano Federica, che era sul punto di andare via. Applausi scroscianti anche per i discorsi di Matteo Slataper della CGL, che ha fatto pure lui riferimento a fatti di attualità, e di Goran Ciuc, vice sindaco di Sant'Orligo, che ha presentato un'articolata ricostruzione storica. Il tutto mentre in diversi momenti si sono sentiti cori, incitamenti e petardi degli antagonisti che manifestavano all'esterno. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Imbrattato nella notte, il monumento ai caduti partigiani di Sant'Anna e Kolonkovec a Trieste. Sulla stele che li ricorda in via dell'Istria è stata tracciata la scritta 25 aprile lutto nazionale con la vernice nera. Il monumento è tradizionalmente teatro nel giorno della liberazione di una cerimonia commemorativa che si è svolta anche quest'anno. È un gesto incivile e inaccettabile, affermano la consigliera comunale PD Valentina Repini e la consigliera circoscrizionale Maida Kodrich, che fanno parte del comitato per il monumento. Uno sfregio che rappresenta un'ulteriore gravissima offesa e una ferita a chi anche a costo della vita scelse senza esitazioni da che parte stare, dalla parte della libertà, della giustizia, della democrazia, dalla parte giusta. La segretaria PD Maria Luisa Paglia chiede che le istituzioni locali facciano tutto il possibile per individuare i responsabili di questo gesto e di assicurarli alla giustizia. Non possiamo permettere che la memoria dei nostri eroi venga macchiata dall'ignoranza e dalla mancanza di rispetto. Il commento del sindaco di piazza in Risiera: la mamma dei cretini è sempre incinta. E ha raggiunto la Risiera di San Sabba, ma senza entrare, il corteo alternativo antifascista per il 25 aprile, organizzato dal collettivo Buriana, che ha richiamato componenti di varia estrazione dall'USB a gruppi pro-Palestina, di cui si sono viste alcune bandiere. In tutto circa 200 persone. La manifestazione, non autorizzata nei tempi, avrebbe infatti dovuto partire alle 12, è partita scortata dalle forze dell'ordine da San Giacomo poco prima delle 10, è risalita per via dell'Istria per discendere lungo Servola, costeggiare lo stadio e raggiungere la Risiera di San Sabba. Qui i manifestanti sono fermi di fronte al cordone delle forze dell'ordine che presidiano la Risiera. Non sembrano voler tentare forzature del blocco, si limitano a lanciare petardi, a cantare Bella Ciao, oltre a intonare cori contro il comune, il presidente della regione e il governo di Israele. Andiamo a Udine adesso, dove stamattina al cimitero britannico di Tavagnacco si è tenuta la deposizione di una corona in memoria dei 400 caduti del Commonwealth in terra friulana, e poi da piazza Primo Maggio è partito il corteo diretto in piazza Libertà. Bandiere, gonfaloni, labari, istituzioni, sindacati e tanti giovani hanno affollato la manifestazione del 25 aprile a Udine, città medaglia d'oro per la resistenza. Dopo le deposizioni delle corone al monumento ai caduti, gli interventi ufficiali, applaudito quello del sindaco del capoluogo friulano che ha ricordato le tensioni interne e quelle internazionali, come il conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine. Abbiamo citato il libro di David Grossman che dice la pace è l'unica via, e lo dice uno che ha perso il figlio contro gli Hezbollah in sud del Libano. Non c'è alternativa alla pace, dobbiamo convivere e coesistere. Un 25 aprile sorvegliato speciale da parte delle forze dell'ordine che per l'occasione hanno bonificato la piazza e il percorso del corteo. A conclusione della manifestazione il discorso ufficiale della vicepresidente nazionale dell'ANPI, che ha ricordato come i valori dell'antifascismo vadano perpetuati ogni giorno. Roberto Verpetti, presidente dell'Associazione Partigiani Osoppo. La resistenza fu il frutto di un apporto di tanti, a partire proprio dalle forze degli eserciti alleati che combatterono e si sacrificarono per noi, per la nostra libertà, così come tutti coloro che furono internati, così come coloro che combatterono ai corpi italiani di liberazione, così come tutte le forze partigiane. Fu una cosa corale, in cui ci furono anche degli errori, anche dei problemi, ma certamente ha consentito all'Italia di vivere 80 anni di libertà. A conclusione, tra due ali di folle, il corteo si è diretto verso piazzale 26 luglio al Monumento della Resistenza. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Udine tra poco, al Parco Rubbia di Pradamano, prenderà il via la 14ª edizione di Resistenza in Festa e alle 15 il concerto di canzoni partigiane. Passiamo alla sanità. In merito alla decisione adottata dall'azienda regionale di coordinamento per la salute di privatizzare il servizio di prelievo di sangue nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, il Burlo Garofalo di Trieste ha fatto sapere questa mattina che per quanto riguarda l'ospedale pediatrico non è in programma l'esternalizzazione di tale servizio. Il 25 aprile è anche la giornata in cui ricorre la festa religiosa di San Marco Evangelista, particolarmente sentita a Pordenone, dove è festa patronale. Stamattina è stato inaugurato il restaurato campanile del Duomo. Il grande vecchio è guarito. Il campanile di Pordenone, proprio nel giorno di San Marco, il santo patrono della città, è tornato sicuro. I lavori di restauro, costati quasi 500.000 euro, con una consistente quota ottenuta grazie alle donazioni dei cittadini, sono finalmente ultimati. Si erano resi necessari per l'usura del tempo di uno dei simboli di Pordenone, i cui lavori di costruzione erano terminati nel 1347. Orioldo Marson, parroco di San Marco. È stato un lavoro che ha riguardato soprattutto la zona della cella campanaria, ma soprattutto poi la cuspide, dove si erano verificati anche degli inconvenienti, si manifestavano delle criticità. I lavori sono durati alcuni mesi, ma tutto è andato liscio, sia nei modi sia nei tempi. Per la ristrutturazione sono stati usati solo materiali tradizionali, un simbolo identitario, per una città che guarda tanto la sua storia quanto al domani. In latino si dice respice ma anche prospice, cioè guarda indietro ma cerca anche di rivolgere lo sguardo verso il futuro. Certo, una giornata così è una giornata di memoria comunitaria, di una storia con le sue radici, con le sue tradizioni, con la sua identità. Di campanile e Duomo come simbolo di porte aperte e di identità di tutti i cittadini ha parlato anche Monsignor Pellegrini, vescovo di Pordenone, che nell'omelia ha ricordato l'esempio del santo patrono in termini di solidarietà e apertura verso gli altri. Dal pulpito il presule ha sottolineato l'importanza del dialogo politico per il bene comune e la giustizia. Pordenone, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E mentre andiamo in onda, in questi minuti è in corso nella sala consiliare del comune di Pordenone l'assegnazione da parte della Pro Pordenone dei premi San Marco 2024. I riconoscimenti vanno a Giulia Bongiorno, già campionessa del mondo nel pattinaggio corsa a rotelle, oggi fisioterapista, a Marco Borrello, vigile del fuoco impegnato nei soccorsi alla popolazione colpita dal terremoto in Turchia nel febbraio dello scorso anno e distintosi particolarmente nelle ricerche della vittima italiana del sisma, l'orafo veneto Angelo Zen, e infine a Giovanni Francesco Scolari, dal 2009 direttore del Polo Tecnologico. Alle 13 seguirà un momento conviviale con la tradizionale Fortaiada in fiera. Due furgoni con 2 tonnellate di aiuti umanitari hanno raggiunto in questi giorni da Trieste la città ucraina di Kherson. Si tratta della 15ª spedizione partita dal capoluogo regionale in questi 26 mesi dall'aggressione russa. Cibo, prodotti per l'igiene personale, ma anche generatori di corrente, estintori, materassi, frigoriferi e lavatrici sono stati consegnati dai volontari triestini alle associazioni umanitarie della città di Kherson, fra le più colpite in questi 2 anni di guerra. 3 i volontari al seguito, i triestini Gabriele Lagonigro e Sergio Vianello e il vicentino Roberto Maculan di Mission Land. Gabriele Lagonigro. Ci siamo affidati a delle organizzazioni del posto che assieme a noi oggi hanno fatto la distribuzione degli aiuti casa per casa, famiglia per famiglia. C'è una grande necessità di qualsiasi genere di prima necessità, anche perché il 90% delle persone sono scappate da Kherson, quei pochi che sono rimasti sono poveri, sono molto anziani, i negozi sono tutti chiusi e hanno bisogno davvero di tutto. Anche in questo caso è importante il sostegno arrivato dalla cittadinanza di Trieste e da numerosi altri volontari giuliani, fra cui Stefano Ravalico, che più volte ha partecipato alle missioni nel paese. Sentiamo Sergio Vianello. Volevamo ringraziare tutte le persone che ci aiutano, le associazioni, gli Amici del Cuore, la parrocchia di Valmauro, la parrocchia di San Vincenzo, la conferenza di San Vincenzo italiana, ma anche la conferenza di San Vincenzo slovena, tutte le persone che in qualche maniera contribuiscono, ci aiutano e che non dimenticano che in questo periodo la guerra qui purtroppo continua, la sofferenza continua. Kherson contava 300.000 abitanti all'inizio del conflitto, oggi ne sono rimasti meno di 30.000. Il prossimo viaggio è previsto probabilmente già a maggio e la meta sarà la regione di Kharkiv, già raggiunta varie volte nelle precedenti spedizioni e dove la situazione peggiora di giorno in giorno. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tempo, cielo da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature a Trieste 9 gradi, vento 35 km orari da est-nord-est, Bora con raffiche a 50 km orari, Gorizia 10 gradi, 11 gradi a Pordenone, 9 gradi a Udine, sul Piancavallo 3 gradi, a Sappada 5 decimi di grado sopra lo zero, a Forni di sopra 5 gradi, 3 gradi a Tarvisio, 8 a Tolmezzo, sul Monte Lussari meno 5 gradi e mezzo, sullo Zoncolan meno 2 e mezzo, tornando sulla costa grado 9 gradi e 5 decimi, 10 gradi a Lignano. E nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti, dove sarà possibile qualche rovescio, specialmente sulle prealpi. La pagina degli spettacoli, le 6 mogli di Enrico VIII nello strepitoso musical che da ieri sera va in scena in prima italiana al Teatro Rossetti di Trieste. Le recite di Six, evento internazionale di questa stagione dello Stabile di Prosa, proseguono fino alla pomeridiana di domenica. La storia pop delle sei mogli di Enrico VIII. Dal West End di Londra, Rossetti di Trieste, in esclusiva per l'Italia, con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, arriva il pluripremiato musical Six, sorprendente rivisitazione tutta al femminile della storia di Enrico VIII, re d'Inghilterra, raccontata ma soprattutto cantata dalle sue sei sfortunate mogli, divorziate o decapitate. Caterina d'Aragona, Anna Bolena e le altre sul palcoscenico si trasformano in sei scintillanti regine del pop, ispirandosi ognuna a una vera pop star, da Shakira ad Adele, da Rihanna a Britney Spears. Lo spettacolo è costruito come un concerto con le sei regine, una vera e propria girl band, che fanno a gara cantando le loro disgrazie matrimoniali per ottenere il ruolo di solista del gruppo. L'unica vittoria però sarà quella di cantare assieme, uscendo finalmente dall'ombra del famigerato marito. Un musical per giovani di tutte le età. Come giovani davvero sono gli autori del musical, due trentenni, Toby Marlowe e Lucy Moss. Six nacque nel 2017, Toby e Lucy erano compagni di università a Cambridge. Accadde tutto in poco tempo, dal debutto a Edimburgo al sold out a Londra. Canzoni contagiose, testi brillanti, linguaggio attualissimo e messaggi femministi. Six diventa fenomeno globale. Decine di premi, milioni di spettatori in tutto il mondo, un atto unico tutto al femminile, compresi i membri dell'orchestra, dal vivo e un cast internazionale. Da non perdere, parola di Six. Trieste, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Udine ieri sera ha preso avvio la 26esima edizione del Far East Film Festival, la rassegna dedicata alla cinematografia dell'Estremo Oriente. A Udine sono i giorni del Far East Film Festival, 26esima edizione, che fino al 2 maggio fissa nel capoluogo friulano uno dei caposaldi della cinematografia internazionale. Appuntamento dai grandi numeri, l'edizione 2024 ha 79 film selezionati in 12 paesi diversi dell'Estremo Oriente, 12 anteprime mondiali, un centinaio di eventi in tutta la città. Ieri sera al Teatro Giovanni da Udine l'apertura ufficiale con il pubblico delle grandi occasioni e una parata di star. Un festival che mobilita non solo la stampa specializzata, ma anche il popolo dei cinefili che qui tastano il polso alle cinematografie emergenti. Come si è sviluppato in questi 26 anni? Lo abbiamo chiesto a Thomas Bertak dell'organizzazione, che nel 1998 già c'era. E quest'anno devo dire è diventato un festival di enorme richiamo sia nei confronti dei nostri ospiti asiatici, sono più di 200 persone che arrivano dall'Asia solo per il festival, ma anche nei confronti degli accreditati, abbiamo 1500 accreditati, che vuol dire un 25% in più di quello che era l'anno scorso. E credo che è cresciuto anche perché è cresciuto l'interesse nei confronti del cinema asiatico. L'Oscar di Parasite, il film coreano, gli ha segnato una nuova evoluzione dei gusti del pubblico e dello spettatore. E quanto il Far East Film Festival ha giovato appunto al cinema asiatico? Molto, credo. Abbiamo costruito negli anni un pubblico che è capace di riconoscere quel tipo di cinema. Sicuramente chi scrive di cinema oggi, molti che si occupano di cinema oggi, di qua ci sono passati e un po' il loro gusto qua se lo sono formati. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Foto di scena del Vangelo secondo Matteo, il film che Pierpaolo Pasolini girò 60 anni fa a Casarsa della Delizia, è in corso una mostra che resterà visitabile fino al 25 agosto. Una quarantina di scatti, alcuni inediti, per rivivere uno dei capisaldi dell'immaginario cinematografico del Novecento. La mostra allestita al Centro Studi Pasolini di Casarsa della Delizia, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, propone le fotografie scattate da Angelo Novi sul set del film di Pierpaolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, a 60 anni dalla sua uscita. Curata da Roberto Chiesi, è visitabile, ingresso gratuito, fino al 25 agosto. Flavia Leonarduzzi è presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini. Angelo Novi, quando riprende sul set del film le scene, attraversa tutta l'Italia meridionale e ci dà questo aspetto del nostro paese di 60 anni fa, com'era. Ce lo restituisce nella sua integrità, nella sua semplicità, un paese che doveva ancora emergere, non era ancora arrivato al boom economico. Le fotografie sono bellissime. bellissime e compongono una mostra originale soprattutto per quanto riguarda le foto a colori. Al tempo erano soprattutto in bianco e nero e qui le vediamo in un paesaggio bellissimo con colori splendidi della terra, del verde, e i volti delle persone sono davvero autentici. Alla mostra si aggiunge anche il nuovo libro Turoldo e Pasolini, due anime friulane, che indaga per la prima volta il rapporto fra David Maria Turoldo e Pierpaolo Pasolini. Un'amicizia così molto semplice, perché è rimasta quasi nascosta, ma che ha avuto in comune davvero tanti aspetti, tante emozioni, una comunanza di vita nei suoi valori più alti da parte di questi due personaggi. Casarsa, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il calcio questa sera alle 20 allo stadio Friuli, si giocano i rimanenti 18 minuti più il tempo di recupero della partita Udinese-Roma interrotta al 72esimo lo scorso 14 aprile a causa di un malore in campo accusato dal difensore giallorosso Ivan Dicca. La partita si era interrotta sull'1-1, punteggio da cui si riparte stasera. Possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara, ma non possono scendere in campo i giocatori che erano già stati sostituiti nel corso della partita, oltre ovviamente agli espulsi. Friulani, quartultimi alla disperata ricerca dei tre punti in classifica necessari per allontanare l'incubo retrocessione. Partita d'esordio per l'allenatore bianconero Fabio Cannavaro, ex campione del mondo nel 2006, proprio come il suo avversario Daniele De Rossi, tecnico della Roma. Tutto pronto al Palasport di Latisana per le ragazze della CDA Talmassons che questa sera alle 18 affronteranno la Futura Giovani di Busto Arsizio nella gara di ritorno che potrebbe regalare la promozione in A1. Dopo la sorprendente vittoria di sabato scorso per 3-0 in casa delle Bustocche, il coach Leonardo Barbieri guarda con molta fiducia alla sfida di stasera in un impianto dove i 1500 posti sono già esauriti. Leonardo Barbieri, coach del Talmassons Volley, come avete preparato questa partita di ritorno dopo il strepitoso successo a Busto Arsizio con un 3-0 che nessuno si aspettava? Ma sicuramente è stato un risultato inaspettato, questo lo sapevamo, però abbiamo visto che in questi ultimi mesi, quest'ultimo mese siamo cresciuti molto, eravamo fiduciosi, devo dire che abbiamo giocato un'ottima partita e speriamo di ripeterla. Lei sa che può passare alla storia del volley del Friuli Venezia Giulia? Ma sicuramente questa cosa la sento, io sono 4 anni che sono qua, perciò ho seguito un po' la storia e devo dire che mai una squadra è arrivata neanche alla finale, perciò già ho capito quando siamo arrivati alla finale che per una regione come il Friuli era già tanto, ecco. Che cosa le ha detto alle sue atlete nell'ultimo allenamento di rifinitura? Che i grandi campioni, quando arrivano a questo punto, sono felici di essere. Quando uno entra a Santiago Bernabéu a giocarsi la finale, è contento, è felice. Perciò dovevano essere felici e soddisfatti di essere qua, ma non perché partecipi a un evento, ma perché quell'evento tu lo vai a giocare perché lo vuoi vincere. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Festeggia 20 anni il torneo delle nazioni di Gradisca di Sonso, il più importante torneo di calcio under 15 al mondo. 12 le nazionali presenti, una delegazione di 500 presenze totali, 150 volontari coinvolti, 10.000 pernottamenti stimati sul territorio. Il torneo inizia alle 18 al Colaussi con Italia, Corea del Sud. Sono le 12:54 minuti e 10 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Caterina Cabrelli e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio oggi, giornata festiva, col GR delle 18:30 su questa frequenza. Vi invitiamo anche a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili Facebook, Twitter e Telegram della redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Grazie della cortese attenzione da Lorenzo Gerlinzoni e da Antonio Cajazza. Buon pomeriggio e a risentirci.